Focus Economia. Saluto e bentrovati da Vincenzo Miglietta 17.06. Mercati azionari in primo piano con un generalizzato andamento negativo che penalizza oggi soprattutto Piazza Affari, scivolata ai minimi giornalieri con una performance tra le peggiori a livello continentale. In questo momento allora guardiamo insieme FTSE MIB meno 1,26%, i migliori e i peggiori proprio del FTSE MIB. Tra i migliori Telecom Italia più 1,71%, Ferrari, Prysmian, Ital, Cementi e Campari. I peggiori del FTSE MIB: Monte dei Paschi, Generali, UbiBanca, Banco Popolare e Iux. Tra i più scambiati invece troviamo Intesa San Paolo, Unicredit e Generali stessa. Gli altri listini europei: DAX Francoforte meno 1,32%, Londra meno 0,46%, Parigi meno 0,90%. Sull'andamento negativo delle piazze azionarie pesa allora il vuoto di domanda tipico delle sedute estive e l'attesa della pubblicazione in tarda serata dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, verbali dai quali il mercato cercherà di interpretare le future mosse della Banca Centrale Americana in tema di aumento proprio dei tassi di interesse, attesa che penalizza anche Wall Street. Dow Jones meno 0,27, Standard & Poor's 500 meno 0,28, Nasdaq meno 0,35, i cambi euro su dollaro 1,1269. Sin qui i mercati, di cui parleremo nel nostro consueto spazio dopo le 17.30. Il nostro primo approfondimento sarà invece dedicato al nodo del rinnovo dei contratti pubblici, rinnovo fermo da 7 anni e che rischia di rimanere ancora una volta al palo, vista la frenata del prodotto interno lordo nel secondo trimestre e la difficoltà di trovare le risorse da parte del governo per questo capitolo e per altre priorità come le pensioni. Altro tema di approfondimento: il piano di salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. C'è molto interesse attorno al lavoro che sta facendo l'advisor McKinsey, che dovrebbe portare ad un nuovo piano industriale e al maxi aumento di capitale. Di fatto si conoscerà come si dovrebbe passare dalle promesse ai fatti, sia per le sofferenze sia per l'aumento stesso. Quindi il capitolo petrolio: le voci di un accordo OPEC hanno rivitalizzato le quotazioni degli ultimi giorni. Al di là delle possibili flessioni giornaliere, c'è comunque un rinnovato interesse attorno all'oro nero. Da dove nasce la nuova attenzione? Dalla possibilità che a fine settembre i paesi OPEC possano congelare la produzione puntando a ridare quota al prezzo del greggio. Fondamentale allora la posizione di Teheran, ma anche dell'Arabia Saudita. Questo allora è il nostro sommario. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo come al solito con le materie prime. L'oro meno 0,6% a 1342 dollari l'oncia, il petrolio meno 0,8% a 46,2 dollari il barile. Parliamo di automobili. L'auto senza guidatore entro il 2021. È questo l'obiettivo di Ford, che raddoppia nella Silicon Valley, ampliando il suo centro di ricerca di Palo Alto e raddoppiando il numero del personale che vi lavora. Ford sta collaborando con 40 startup per lo sviluppo di auto senza guidatore. Cisco System, il più grande gruppo al mondo della produzione di apparati di networking, si appresta a tagliare fino a 14.000 dipendenti nel mondo, pari al 20% della sua forza lavoro. Lo riporta CRN, sito specializzato in notizie sul mondo della tecnologia, che cita diverse fonti vicine all'azienda americana. Secondo CRN, i tagli verranno annunciati nelle prossime settimane, mentre i piani di prepensionamento sono stati già offerti ai dipendenti. Gli esuberi rientrano nel disegno di spostare il baricentro del gruppo americano dalla produzione di hardware a quella di software. Oggi l'azienda californiana pubblicherà la trimestrale. L'euro è difettoso fin dalla nascita. La soluzione per i problemi dell'Europa è un divorzio amichevole, ovvero una fine dell'euro, istituendo un sistema di euro flessibile. Lo afferma il premio Nobel all'economia Joseph Stiglitz in un intervento sul Financial Times, sottolineando che l'Europa dovrebbe abbandonare l'euro per salvarsi e salvare il progetto europeo. La moneta unica, invece che portare prosperità, ha messo a rischio gli aspetti fondamentali del progetto europeo, dice ancora Stiglitz. Gran Bretagna, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,9% nel secondo trimestre, restando sui minimi da 11 anni a questa parte, lo ha reso noto l'Office for National Statistics. Il numero dei senza lavoro, riferisce l'ONS, si è attestato a 1,64 milioni, oltre 200.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Il dato si riferisce però al trimestre immediatamente precedente al referendum sulla Brexit e gli analisti scommettono su un dato in peggioramento nei mesi successivi. Il dato sul mercato del lavoro in Gran Bretagna nel secondo trimestre sembra buono, ma dubitiamo che resti così, visto il deterioramento delle statistiche sull'attività economica seguito al voto sulla Brexit, commenta l'economista di ING James Knightley. Un altro effetto sulla Brexit lo vediamo dal comportamento della Norvegia. Allora, Norge Bank, il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, con 890 miliardi di dollari in gestione, ha tagliato autonomamente del 5% il valore del suo portafoglio immobiliare in Gran Bretagna in seguito al referendum che ha decretato l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. È stata una misura straordinaria, ha detto il vice amministratore delegato Trond Grand in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre, secondo quanto riporta Bloomberg. Il fondo ha registrato una perdita dell'1,6% sul complesso dei suoi investimenti nel mercato immobiliare, pari a 20,4 miliardi di dollari. Nel complesso, grazie agli investimenti obbligazionari e azionari, che rappresentano gran parte degli asset in gestione, nel secondo trimestre il fondo ha realizzato un rendimento dell'1,3% pari a 94 miliardi di corone norvegesi, circa 11,4 miliardi di dollari. E passiamo all'Italia. Gli investitori attivi sul mercato azionario italiano si stanno preparando al voto sul referendum costituzionale che potrebbe tenersi il prossimo novembre e che Bloomberg il prezzo delle opzioni per proteggersi contro la volatilità dei prezzi nei prossimi tre mesi è salito ai massimi dal 2013, si è raffrontato con le opzioni per proteggersi contro la volatilità a un mese, evidenziando un allargamento dello spread per le protezioni che si estendono in prossimità della possibile data del referendum. Bloomberg sottolinea che mentre gli altri listini europei si sono ripresi dallo shock della Brexit, a Piazza Affari resta ancora molta strada da fare. Il listino milanese ha perso il 22,7% da inizio anno, più del doppio di Madrid, meno 10,5%, la seconda peggior borsa in Europa, appesantito dal crollo dei titoli bancari alle prese con lo smaltimento di 360 miliardi di euro di crediti deteriorati. Bloomberg ricorda un report di Citigroup dello scorso luglio che bollava il referendum costituzionale come il principale rischio per la politica europea al di fuori della Gran Bretagna e cita un gestore di Old Mutual Global che ha tagliato la sua esposizione al mercato azionario italiano a causa del rischio legato proprio all'esito della consultazione. In mattinata il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito al telefono sia Angela Merkel sia François Hollande per una messa a punto tecnica del vertice di Ventotene di lunedì prossimo e per un giro d'orizzonte sugli scenari di crisi internazionali come la Libia e la Siria, nonché sulla situazione economica europea. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Veniamo ad una notizia che abbiamo ascoltato anche nel GR proprio di Radio 24. Ryanair farà nel 2017 il suo più grande investimento di sempre in Italia. Lo ha annunciato il CEO della compagnia Michael O'Leary in una conferenza stampa con il ministro dei trasporti Delrio, precisando che allocheremo 10 nuovi aeromobili per un investimento di $1 miliardo, apriremo 44 nuove rotte e cresceremo di 3 milioni di passeggeri. E Il nuovo piano di crescita per l'Italia di Ryanair con 44 nuove rotte, $1 miliardo di investimenti e 3 milioni di nuovi passeggeri genererà 2.250 posti di lavoro presso gli aeroporti italiani. Lo ha detto sempre O'Leary di Ryanair presentando il nuovo piano assieme al ministro Del Rio e al presidente dell'ENAC Vito Riggio. E ancora su questo punto le frasi del ministro delle infrastrutture Del Rio: 2.200 posti di lavoro, 1 miliardo di investimenti non sono scherzi, sono cose importanti, oggi è una buona giornata per l'economia italiana, è un'ottima notizia, spero che tanti altri seguiranno questo esempio, ha detto ancora Del Rio. Il governo italiano continua nel percorso di allineamento con le norme europee per aumentare i servizi ai cittadini e creare opportunità per tutti gli investitori. Ci avviamo verso il nostro primo approfondimento, l'ultima notizia in breve: sono oltre 7 milioni le case vuote in Italia, più di un'abitazione su 5 non ha inquilini, pari al 22,5% del totale, con una concentrazione maggiore nelle regioni del sud come Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia, per effetto delle migrazioni, ma anche in Val d'Aosta e Liguria, dove abbondano le case di villeggiatura. Lo rivela un'analisi elaborata da Soloaffitti. Secondo gli ultimi dati disponibili, la Val d'Aosta è la regione dove ci sono più abitazioni sfitte, ben il 50%, ma in vetta alla classifica nazionale si piazzano molte realtà del sud come la Calabria, il Molise, Abruzzo, la Sicilia. La proposta di Soloaffitti, franchising immobiliare specializzato nella locazione, è quella di incentivare il mercato locativo valorizzando gli immobili vuoti. In totale sono oltre 7 milioni di unità. Per le notizie in breve ci fermiamo qui, passiamo ora al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento dedicato a tutto ciò che è intorno alla prossima manovra economica e come questa è stata condizionata di fatto dai dati della scorsa settimana del prodotto interno lordo. Ricordiamo una frenata nel secondo trimestre che di fatto rimette in discussione gli obiettivi di fine anno del governo per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Un conto arrivare a fine anno con 1,2% di crescita, un conto fermato alla metà, sono tutte risorse che vengono a mancare per tanti argomenti. Oggi in particolare ci concentriamo sul rinnovo del contratto per il pubblico impiego che manca da ben 7 anni. Ne parliamo perché ne sa più di noi con Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi agli ascoltatori. Allora Gianni, partiamo da questo fatto. Allora, vi saranno meno risorse? La prima domanda che ti faccio allora è questa: che farà il governo? Rinvierà ancora per un po' questo famoso rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione? Allora, di fatto i tempi non sono corti per arrivare al rinnovo del contratto, non solo per una questione di risorse. Naturalmente, come dire, c'è da ricostruire tutte le regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici con la pubblica amministrazione, appunto, e c'è in ballo il cantiere della riforma Madia, e proprio a settembre entrerà nel vivo del nuovo testo unico del pubblico impiego. Detto questo, questi tempi non brevi, diciamo così, di ricostruzione del contesto aiutano, tra virgolette, il governo a gestire una partita che ha anche un evidente problema in termini di risorse. La manovra, quella di quest'anno, quindi quella approvata alla fine dell'anno scorso, aveva messo sul piatto 300 milioni di euro per il rinnovo, a cui si aggiungono una settantina di milioni per regioni ed enti locali, cioè sostanzialmente quasi nulla. Ma i sindacati, dal canto loro, diciamo, fanno il loro mestiere. Certamente. E invece rivendicano l'esigenza di cifre molto più importanti. Si parla di 7 miliardi nel triennio. Sì. Si parla di 7 miliardi nel triennio, ma bisogna stare attenti a un dato tecnico. Il dato tecnico è il seguente: la sentenza della Corte Costituzionale che impone di riavviare la macchina dei contratti pubblici che è bloccata da 7 anni, dice che appunto i contratti vanno rinnovati, ma che l'arretrato, diciamo così, va in carrozza, per usare un termine semplice. dice, cioè il blocco che c'è stato fino a metà del 2015 è legittimo, quindi non c'è esigenza di recuperare l'arretrato, bisogna recuperare solo l'ultima parte del 2015 e poi il nuovo triennio. A determinare il tutto è l'inflazione, che come sappiamo è praticamente piatta in questo periodo, quindi da un punto di vista strettamente tecnico, diciamo, c'è la possibilità di fare un rinnovo del contratto con risorse molto più basse rispetto ai rinnovi classici del passato e così via. Naturalmente tutto questo, come dire, arzigogolato discorso tecnico si incrocia però con un dato politico, che è il seguente: i lavoratori pubblici sono 3 milioni, sono 3 milioni anche di persone che votano con le loro famiglie, siamo vicini a una serie di appuntamenti, prima di tutto il referendum, molto delicati su un piano politico, e il governo, per bocca dello stesso Renzi e della ministra Madia della pubblica amministrazione, ha detto che avrebbe aumentato questa dotazione. Inizialmente si diceva la aumenteremo perché la crescita ci darà le risorse per farlo. La crescita in questo momento non sta dando le risorse per farlo, però rimane l'indirizzo politico, l'intenzione politica di aumentarle. Tutto sta a quanto, ma non si arriverà sicuramente ai miliardi evocati dai sindacati, perché questi miliardi prima di tutto non ci sono, e poi non c'è la base proprio numerica, matematica, cioè l'inflazione da recuperare, che giustificherebbe un aumento così importante. Allora Gianni, in questi casi quando si devono recuperare delle risorse, il governo agisce in teoria su due leve: da una parte con la famosa spending review, però sulla quale noi mettiamo un punto interrogativo, e dall'altra sul chiedere, perché è stata un'operazione di Palazzo Chigi dell'ultimo anno, nel chiedere a Bruxelles una maggiore flessibilità. Credo perché è stato annunciato proprio dal governo che sarà seguita soprattutto questa seconda strada. Allora noi per arricchire il nostro confronto andiamo ad ascoltare il ministro delle infrastrutture Delrio, che commenta prima i dati del PIL e poi proprio ci dà un giudizio sul referendum, ovvero anche per Delrio logicamente il referendum sarà uno spartiacque nell'operazione del governo. Allora ascoltiamo prima Delrio sui dati del PIL del secondo trimestre. Certamente il secondo trimestre ha avuto questo stop, noi però credo che i conti andranno fatti a fine anno, e quindi gli obiettivi sono di due tipi. Uno è quello di continuare ad attrarre gli investimenti privati, quindi attrazione di investimenti privati. L'Italia ha fatto passi avanti in questo anno e mezzo, in questi due anni di governo credo ha fatto dei passi seri in avanti da questo punto di vista. E gli investimenti pubblici, avete visto il piano da oltre 20 miliardi che abbiamo licenziato pochi giorni fa. Quindi questi due piedi, diciamo, tengono un tavolo che speriamo si robustisca sempre di più, ed è evidente che con gli investimenti pubblici e con gli investimenti privati cresce anche ovviamente l'occupazione e quindi il prodotto interno lordo. E così Delrio, ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Di fatto per il governo i conti andranno fatti alla fine, e effettivamente siamo ad agosto, c'è ancora molto da recuperare in teoria da qui a dicembre, quindi la possibilità di trovare le risorse necessarie e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Però in mezzo, probabilmente primi di novembre, vi sarà il referendum sulle riforme costituzionali, dal forte impatto politico, anche tu Gianni lo dicevi poc'anzi, sono per esempio 3 milioni i lavoratori pubblici che andranno a votare, e anche le scelte di politica economica per quanto riguarda il pubblico impiego potrebbero influire su questo appuntamento. Allora ascoltiamo anche Delrio sul referendum. Noi crediamo molto, molto nel referendum, nella proposta che facciamo agli italiani, e crediamo molto che gli italiani siano in grado di capire che questo è un passo in avanti per rendere le istituzioni italiane più democratiche, più efficienti, più rappresentative dei territori, perché l'Italia è fatta di tanti comuni, di tanti territori, e il loro dinamismo serve all'Italia. Avere il Senato delle autonomie servirà all'Italia a funzionare meglio. Quindi noi siamo molto convinti della nostra proposta. È evidente che siccome questa chiude un ciclo di riforme di straordinario straordinaria intensità e credo anche di qualità, per questo giudizio che noi diamo. È chiaro che se fallissimo questo appuntamento, qualche conseguenza in termini di credibilità e di fiducia del sistema paese ci sarebbe, ma insomma intanto pensiamo a convincere gli italiani e questo è il nostro lavoro dei prossimi mesi. E questo era ancora Del Rio al microfono di Chiara Piselli. Gianni Trovati, è un dato di fatto che comunque dal 2008, secondo la CISL, ogni lavoratore del pubblico impiego ha perso una media di 2.500 euro lordi l'anno, pari a 150 euro netti al mese. Quindi la rivendicazione c'è tutta da parte del pubblico impiego. Non c'è dubbio che il pubblico impiego abbia pagato un prezzo salato alle misure che hanno cercato di contrastare la crisi di finanza pubblica. Va detto anche che il mondo dell'impiego privato ha pagato un prezzo probabilmente altrettanto salato anche in termini di perdita di posto di lavoro, rischio che nel pubblico sostanzialmente continua a non esserci. Il punto è però, come dire, è legittima l'esigenza e anche la come dire, forza rivendicativa dei sindacati. Se tu sei un sindacato che si siede dopo 7 anni a un tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto pubblico, non puoi alzarti da quel tavolo portando a casa 3 euro lordi, perché poi la gente ti chiede che cosa ci stai a fare. Quindi questo è, come dire, entra nell'ottica politica, ognuno ha il suo ruolo. C'è però un problema forte di compatibilità economiche legato al fatto che tutte le misure anticrisi che hanno congelato stipendi, hanno frenato turnover eccetera, sono state giudicate legittime. Non è più legittimo proseguire nel blocco in maniera indeterminata. Quindi qualcosa bisogna fare. Bisogna fare naturalmente sul fronte dei rinnovi contrattuali, ma bisognerà fare anche ancora più profondamente sul fronte del rinnovo delle regole. Per esempio introducendo questa chimera che nel pubblico si dice sempre ma non si fa mai, di un sistema di valutazione in grado distinguere non solo i dipendenti, come si dice, quelli più produttivi da quelli meno produttivi e così via, ma anche le strutture, i settori che hanno più bisogno di aiuto, più bisogno di turnover eccetera, da quelli che invece hanno un po' meno bisogno. Perché ricordiamoci che il blocco è vero che ha come dire, fatto pagare un prezzo salato a tutto il pubblico impiego, ma all'interno del pubblico impiego chi è arrivato dopo e quindi ha meno scatti di anzianità e così via ha pagato di più di fatto di chi era arrivato prima e aveva goduto degli aumenti precedenti. Cioè oltre a frenare la spesa, il blocco ha anche, diciamo così, fotografato l'inefficienza e come dire, la disuguaglianza di trattamento che è all'interno del pubblico all'interno impiego. Dello stesso pubblico impiego. Gianni, questo è un argomento che come al solito piace ai nostri ascoltatori. 349-238-6666, logicamente poi gli sms sono con toni molto accesi. Un ascoltatore ci scrive: rinnovo del contratto con l'11% di disoccupazione, punto esclamativo, ringrazino, ovvero i dipendenti pubblici, di avere ancora un lavoro. Potrebbe anche essere un discorso giusto, però era un po' come dicevamo, cioè nel conto, oltre al fatto che c'hai lo stipendio bloccato, devi tenere anche il fatto che hai il posto sostanzialmente assicurato. Che comunque il settore privato ha subito settore, altri... Esatto. Questo però non vuol dire che siano comunque 7 anni che non c'è questo rinnovo del contratto che è previsto poi dalla contrattazione collettiva. Ed per è cui anche un obbligo costituzionale, per carità del cielo. Però quindi, appunto, nel gioco del dare e dell'avere va considerato anche questo. E soprattutto, ribadisco, bisogna ricostruire un quadro in cui chi ha le gambe per correre all'interno del pubblico impiego abbia più possibilità di correre, perché il blocco congela carriere, congela prospettive, congela tutto quanto e continuano a esserci tuttora, come dire, settori del pubblico impiego in cui gli stipendi magari di poche persone sono molto alti e molto, come dire, non troppo allineati con responsabilità, impegni, eccetera, e continua nel frattempo a esserci un'ampia parte del pubblico impiego che ha stipendi molto bassi in rapporto a un impegno che invece è elevato. Quindi, come dire, togliere il pubblico impiego dal congelatore implica non aumentare la spesa complessiva di tanto, ma redistribuirla in una maniera un po' più virtuosa dell'attuale, perché noi presi dall'emergenza nel 2010, abbiamo detto fermi tutti, fermiamo la situazione così com'è oggi, e quindi siamo nel 2016 ancora con quelle inefficienze. Gianni, brevemente ti chiedo una risposta rapida, leggo le priorità secondo il vice ministro dell'economia Zanetti, visto il fatto che vi sono poche risorse e l'andamento del PIL non aiuta. Zanetti dice: le priorità del governo sono evitare l'aumento dell'IVA, ridurre le tasse sul lavoro, rinnovare i contratti degli statali, e poi, soltanto poi, forse si può pensare ad interventi redistributivi sulle pensioni, tutti argomenti di cui ti sei comunque occupato negli ultimi giorni. Può essere una scaletta che il governo potrebbe seguire a parità di risorse? Allora, sicuramente la prima priorità è evitare l'aumento dell'IVA, che è figlio delle famose clausole di salvaguardia che ucciderebbe qualsiasi prospettiva. Zanetti ha messo all'ultimo posto di questa fascia A delle priorità le pensioni. Non tutti nel governo sono d'accordo, anche perché anche quello, come il rinnovo del contratto degli statali, è un tema non solo economicamente ma anche politicamente molto importante. Grazie a Gianni Trovati, a collega del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme, Focus Economia. Parliamo ora di Monte dei Paschi di Siena, vedremo tra breve come è andata la giornata in borsa, ma quello che ci interessa approfondire in questo nostro spazio è il piano industriale di Monte Paschi di Siena, perché a metà settembre arriverà nero su bianco quello che la governance di Monte Paschi più i consulenti industriali di McKinsey vorranno fare nello specifico. Di tutto ciò parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Luca Davi. Buon pomeriggio, Luca. Buon pomeriggio a voi. Luca, allora, si è detto, e il mercato lo ha anche apprezzato, magari non oggi ma nei giorni scorsi, dell'annunciato aumento di capitale da 5 miliardi, e anche che sarà messo mano alle famose sofferenze per 9 miliardi. Però nello specifico dobbiamo attendere il piano industriale e soprattutto sapere poi chi metterà i soldi in questo aumento di capitale. Tutto ciò si saprà a settembre. Cosa si può dire, cosa ci puoi anticipare? Beh, diciamo che in questo momento l'advisor di MPS, che è McKinsey, sta lavorando insieme al management per trovare la quadra rispetto appunto al nuovo piano industriale, che dovrà essere il prerequisito poi per andare sul mercato e richiedere questi 5 miliardi di euro che serviranno a ricapitalizzare la banca. Le linee guida di questo piano per ora indicativamente portano a una riduzione nuova dei costi, che dovrebbe essere realizzata tramite un alleggerimento della rete distributiva. Non c'è nulla di nuovo, insomma, sotto il sole, perché questo è già stato fatto e tutte le banche italiane lo stanno facendo ormai da anni. L'altra gamba del piano dovrebbe essere però quella di un aumento potenziale dei ricavi da ricercare tramite una focalizzazione sulla digitalizzazione. E insomma, in generale, un efficientamento che dovrebbe migliorare la redditività, perché il problema vero di MPS, così come di tutte le banche italiane, soprattutto insomma delle banche medie, non certo dei campioni, ma di tutte le banche medie, è quello di remunerare in maniera adeguata, certo, il capitale. Questo è un po' il quadro generale. Accanto a questo grande capitolo che è il nuovo piano industriale, si affianca ovviamente il dossier di fondo, che è un po' il maxi piano di cartolarizzazione delle sofferenze di MPS, ed è questo un po' il punto su cui si sta concentrando l'attenzione di tutti gli investitori, che forse agganciandola al tema dell'aumento di capitale crea qualche dubbio da parte degli investitori. Indubbiamente, Luca. Allora, andando per ordine, tra poco andiamo a vedere chi metterà i soldi, chi potrebbe anzi mettere i soldi nell'aumento di capitale, ma una domanda che ci fanno anche i nostri ascoltatori: la governance, chi decide oggi in casa Monte dei Paschi di Siena, visto poi i fatti degli ultimi mesi? Questo è un tema secondo me interessante, perché proprio il tema dell'azionariato di MPS in queste ultime settimane sta cambiando, e sta cambiando in una maniera in cui sostanzialmente fa vedere come prima azionista di fondo il tesoro. Perché? Perché Fintech Advisory, che fino a qualche tempo fa, fino all'inizio di agosto, era il primo azionista e lo era ormai da anni, dal 2014, ha deciso di scendere sceso dal 4,5 al 2,4, si è saputo direttamente dalle indicazioni della Consob. Questo significa che oggi il primo azionista di Banca MPS è il MEF, il Tesoro. Questo significa che cosa? Significa che da qua al futuro a decidere in casa MPS sarà tendenzialmente appunto il MEF, quindi si presume che in fin dei conti in tutte le decisioni della banca venga coinvolto anche direttamente Palazzo Chigi, perché di questo stiamo parlando. E non è un dettaglio di poco conto, perché ovviamente la banca è in mezzo a una fase di grandissima trasformazione, quindi sono necessarie delle decisioni forti, un vero piano di rilancio si sta attendendo, e quindi è realistico che nelle prossime settimane probabilmente venga coinvolto direttamente Roma, insomma, in questi importanti passaggi nella storia della Banca Senese. Quindi vi potrebbe essere il coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi direttamente anche Palazzo Chigi. Veniamo all'aumento di capitale, che poi è stretto come argomento anche alle sofferenze. Ricordiamo 5 miliardi l'uno, 9 miliardi l'altro aspetto. Chi potrebbe essere attratto da questo aumento di capitale? L'aumento di capitale è quello che tutti si attendono. È un'operazione che dovrebbe essere varata nell'ultima parte dell'anno, nell'ultimo trimestre. È, come sappiamo, come abbiamo detto, subordinata appunto al varo di un nuovo piano industriale. Sono coinvolte anzitutto le due banche capofila, cioè JP Morgan e Mediobanca, altre sei banche per ora, sono sei banche internazionali, altre ne arriveranno, altre due sono in rampa di lancio, ma se ne attendono anche altre quattro. Insomma, il progetto è di allargare il più possibile. C'è cautela da parte di queste banche, che per ora hanno, ricordiamolo, hanno firmato solamente un accordo non vincolante di pre-sottoscrizione. È anche normale che accada, insomma, in questa fase, però è anche vero che gli investitori stanno attendendo i prossimi passi, quello che dovrebbe anche vedersi sul piano politico. Insomma, c'è cautela, non è una fase ovviamente di assolutamente di timore, anzi, quindi c'è un piano che è strutturato, è fatto ed è sulla carta. Ora si tratta però di vederne l'implementazione, e gli investitori in questa fase stanno attendendo questo, stanno cercando di capire come, ad esempio, i tecnici di Questio SGR, cioè l'SGR che sta alle spalle di Atlante, che interverrà nella cartolarizzazione, i tecnici di Fonspa che stanno lavorando per il carotaggio appunto delle sofferenze, quindi la valutazione di questi crediti in sofferenza. Si sta cercando di capire quale forma prenderà questa cartolarizzazione, e quindi una volta che si capirà che saranno deconsolidati dal bilancio queste sofferenze, a quel punto forse ci sarà anche più rilassatezza sul mercato rispetto a un titolo che, ricordiamolo, è ai minimi storici. Ecco Luca, un'altra domanda. Luca Davi, collega del Sole 24 Ore, perché questa volta con l'aumento di capitale da 5 miliardi le cose dovrebbero andare diversamente da quello che è successo negli ultimi anni per Monte dei Paschi? Non sono i primi soldi che vengono messi nella banca senese, e qual è la differenza di adesso rispetto al passato? È un'ottima domanda, e penso che in tanti se la stiano ponendo. MPS arriva praticamente al terzo aumento nel giro di due anni, va a chiedere 5 miliardi dopo che ne ha chiesti quasi 8, mi sembra, nel giro di tre anni. Questi 5 miliardi però perché dovrebbero essere in qualche modo decisivi? Perché si suppone che siano la pietra tombale o comunque una soluzione strutturale definitiva, come l'ha definita la banca, nel problema grande dei crediti deteriorati? Perché andrebbe a far deconsolidare, proprio a sganciare dal bilancio l'intero blocco delle sofferenze. Stiamo parlando di 10 miliardi di crediti malati, quindi tutti i crediti peggiori, insomma i più deteriorati della banca, andrebbero espulsi. Si creerebbe quindi una bad bank, e a quel punto, insomma, la banca rimarrebbe con un blocco sì di crediti in difficoltà, ma una mole di crediti ritenuti in qualche modo gestibile. Insomma, si andrebbe sostanzialmente ad allinearsi alla media delle banche italiane in termini di peso dei crediti deteriorati, e questo porterebbe MPS quantomeno in una condizione di normalità. Questo è l'obiettivo dell'aumento di capitale, e questo si spera che possa essere la conclusione della storia, insomma la storia più drammatica però, di MPS. Certo. Certo Luca, però sullo sfondo, lo scrivi anche tu oggi sul Sole 24 Ore, restano le incognite per la banca relative alle richieste d'anni. Potrebbe questo aspetto influire sulle decisioni che saranno prese nei prossimi mesi? Sì, c'è anche questa incognita, effettivamente, che è un'incognita che è emersa nell'ultimo bilancio, perché ci sono richieste d'anni per qualcosa come 283 milioni di euro. Ci sono diversi soci che hanno denunciato la banca per presunte falsità nei prospetti informativi degli aumenti di capitale realizzati, stiamo parlando delle vecchie gestioni anzitutto, quindi a partire dal 2008. L'istituto, la banca, ha spiegato in particolare che però non esclude che, insomma, sostanzialmente queste azioni possano in qualche modo anche aumentare, possano quindi aumentare anche i rischi di impatto, e quindi forse anche in questo senso c'è un ulteriore elemento di complessità che si aggiunge in uno scenario che, va detto, sicuramente non è facile. Diciamo che MPS ha trovato, grazie a questo grande piano organizzato da JP Morgan e Mediobanca, e a cui ha lavorato sicuramente Roma in quanto MEF, CDP, la stessa banca, ha trovato un piano diciamo su cui lavorare. Ora però tutti i pezzi del puzzle devono entrare nel loro quadro, e bisogna sperare che vadano nel tempo giusto, nel momento giusto, affinché tutto l'intero quadro per risolvere il problema di fondo, che è quello proprio dei crediti deteriorati, vada a buon fine. Grazie a Luca Davi, collega del Sole 24 Ore. Noi chiudiamo questo approfondimento dedicato al Monte dei Paschi ricordando le parole del sindaco di Siena Bruno Valentini, che dice: la città ha saputo rialzarsi dopo una caduta e ricominciare a correre. Dopo una delle più grandi crisi finanziarie, quella di Monte dei Paschi, Siena si ritrova organizzata e capace di fare programmi per il proprio futuro e aprirsi al mondo. Insomma, vediamo e seguiremo con attenzione le prossime mosse che arriveranno da Siena. Noi ci fermiamo qui e passiamo alla giornata in borsa. Per la giornata in borsa coinvolgiamo il collega Paolo Paronetto, Radio Core Sole 24 Ore. Allora, Paolo, guardo il FTSE MIB e oggi segna un meno 1,58%. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Sì, per Milano oggi Milano ha registrato una delle peggiori performance in Europa. Comunque il calo è stato accumulato a tutti i principali listini continentali, e su cui continuano a prevalere i realizzi dopo i rialzi registrati nella prima metà del mese di agosto. Sta a pesare, così come ieri, continua a essere l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve americana, dopo che ieri alcuni esponenti proprio della Fed sono tornati ad alimentare l'aspettativa di un nuovo rialzo dei tassi americani entro la fine dell'anno e forse già nel mese di settembre. Gli investitori quindi, in attesa di leggere questa sera i verbali dell'ultima riunione, quella di fine luglio, della Federal Reserve, del FOMC, della Federal Reserve, hanno preferito vendere i titoli realizzando i guadagni messi a segno nella prima parte di agosto. Ecco Paolo, dunque, realizzi in attesa delle decisioni della Fed. Noi ci fermiamo per qualche attimo, spazio ora alle strade. Focus Economia. Nuovo insieme Focus Economia. Stavamo parlando con Paolo Paronetto, collega di Radio Core Sole 24 Ore. Eravamo partiti dal dato negativo di oggi del FTSE MIB, meno 1,58%. Paolo, le altre piazze continentali come sono andate? Sì, beh, diciamo che l'andamento di Milano è stato tra i peggiori, in linea con quello di Madrid, meno 1,56%, ma ha registrato una perdita superiore al punto percentuale anche Francoforte, meno 1,3%, mentre Parigi si è fermata a meno 0,96% e Londra ha limitato i danni a circa mezzo punto percentuale. Ecco, Paolo, quali sono i titoli che hanno fatto segnare le performance migliori e peggiori? Beh, a Piazza Affari hanno pesato soprattutto le vendite sul comparto finanziario, sono scesi quasi tutti, anzi direi tutti i titoli bancari, in particolare UbiBank ha perso oltre il 4%, la Popolare dell'Emilia Romagna il 3,7% e il Monte dei Paschi di Siena il 3,5%, male anche Generali che ha chiuso in calo del 2,7%, penalizzata anche dalle voci sulla possibilità che il titolo Generali lasci l'indice Eurostoxx 50 in occasione della prossima revisione che sarà effettuata il 31 agosto, voci non confermate ma che hanno pesato sul titolo. In controtendenza invece è stata una giornata positiva per Telecom Italia che è salita dell'1,9%, il titolo ha beneficiato delle indiscrezioni secondo le quali l'Unione Europea si starebbe preparando a varare nuove regole più stringenti per i servizi online come WhatsApp e Skype, ipotesi di cui naturalmente beneficiano gli operatori tradizionali che già sono soggetti a questo tipo di regolamentazione. Bene anche Ferrari, dopo il calo di ieri, il titolo è salito dello 0,5% grazie anche a un report di Morgan Stanley che conferma le prospettive positive sul business della società. Ecco Paolo, tra poco andremo a parlare nell'ultima parte di Focus Economia di petrolio, di tutto ciò che gira attorno all'oro nero. Abbiamo notato negli ultimi giorni comunque un buon andamento per i titoli legati proprio al petrolio. Cosa ci puoi dire per questi? Beh, oggi è stata una giornata abbastanza volatile per quanto riguarda il petrolio. Per gran parte della seduta, soprattutto nella prima parte, il prezzo del greggio scendeva dopo i rialzi di ieri, quindi anche su questo fronte c'erano realizzi, e poi tornato a salire dopo la pubblicazione del rapporto settimanale sulle riserve americane che sono scese, quindi il prezzo del greggio è tornato a salire verso quota $47 al barile per quanto riguarda la consegna a settembre sul WTI. Adesso proprio in questo momento sto vedendo in diretta che il greggio è tornato a scendere, quindi è rimasto molto volatile. I titoli legati al petrolio oggi hanno perso terreno, anche in questo caso si tratta di realizzi dopo il buon andamento di ieri, tuttavia si tratta di cali limitati. A Piazza Affari Saipem ha perso mezzo punto percentuale, Eni meno 1,24%. Grazie a Paolo Paronetto, collega di Radio Coro e Sole 24 Ore. Noi chiudiamo qui la giornata in borsa e passiamo al prossimo approfondimento. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Approfondimento che dedichiamo al mondo del petrolio. Prima però vorrei ricordare che domani, quindi sempre con il Sole 24 Ore, nella pagina Investire con il Sole, vi sono i consigli e le cautele sulle scelte da compiere con gli indici americani ai massimi, con anche un focus sui titoli high tech che nell'ultima tornata delle trimestrali hanno evidenziato un andamento fortemente differenziato. Dunque Investire con il Sole, i consigli e le cautele da compiere con gli indici americani ai massimi. Parliamo allora ora del petrolio e lo facciamo con la collega Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Sissi. Sì, buonasera. Sissi, allora, a parte oggi, ma abbiamo visto nelle ultime sedute di Piazza Affari un petrolio tornato, non dico su livelli di tempo fa, ma comunque abbastanza in movimento. Questo perché, come leggo anche dal tuo articolo sul Sole 24 Ore, sulle voci di un possibile ritorno della centralità dell'OPEC forse a settembre. Spiegaci meglio cosa sta succedendo. Sì, guarda Vincenzo, è ricominciato il solito teatrino di parole, di voci messe in circolo deliberatamente da parte dei sauditi e degli altri produttori dell'OPEC, ma non solo, anche da parte della Russia, per cercare di sostenere per l'appunto con le parole un mercato che si stava indebolendo di nuovo. È un po' quello che fanno anche i banchieri centrali quando con qualche affermazione riescono a far risalire magari le valute, no? Abbiamo visto nelle ultime ore che da parte di esponenti della Fed sono arrivati commenti che hanno risollevato il dollaro dai minimi. Qui sta accadendo un po' la stessa cosa. Poi certo non si sa mai, è anche possibile che stavolta, dopo tanti tentativi andati a vuoto, riescano effettivamente i produttori dell'OPEC, affiancati magari da produttori non OPEC, a fare qualche cosa per davvero, e allora gli investitori, gli hedge fund, che erano molto sbilanciati su scommesse ribassiste, perché questo accumulo gigantesco di scorte di petrolio che si è andato man mano creando negli ultimi anni stava effettivamente pesando di nuovo sulle quotazioni, si erano esposti molto con scommesse al ribasso, e quindi non si sa mai, di fronte a questo rimettersi in moto di voci, di affermazioni sulla possibilità di un accordo, allora meglio proteggersi, meglio chiudere un po' di queste posizioni corte, meglio ricoprire, e quindi il petrolio è quasi ritornato, come giustamente ricordavi, sui livelli che era su cui era a luglio, insomma, che certo, aveva sorpassato $50 al barile, un livello comunque basso rispetto a quello a cui eravamo abituati anni fa. Ecco, sì, ricordiamo allora che il petrolio a questi livelli, al di là, ripeto, degli andamenti degli ultimi giorni, lo troviamo così perché ormai sono anni, tra virgolette, gli ultimi recentissimi, che vi è un'offerta superiore alla domanda, ma queste scorte, lo ricordavi anche tu, che sono ai massimi, ma c'è qualcuno che dietro a tutto ciò opera affinché vi sia un eccesso di offerta. Ricordavamo l'Arabia Saudita, e poi sul mercato è entrato il nuovo player che è Teheran, e cosa potrebbe accadere quando mai anche la Libia dovesse tornare alla produzione di un tempo? Insomma, questo per dire che non sarà facile congelare quantomeno l'offerta sul mercato, immagino. Sì, in realtà un player fondamentale che prima davvero non c'era, che abbiamo messo adesso di ricordare, è lo shale oil negli Stati Uniti. Certamente. È questa la vera variabile che ha sconvolto e scombussolato gli equilibri negli ultimi anni sul mercato, creando una quantità addizionale di petrolio che ha contribuito non poco. Poi l'Arabia Saudita sta effettivamente continuando ad aumentare la sua produzione, quindi al di là delle parole su una maggiore o minore disponibilità, poi a limitarsi, intanto sta producendo 10,7 milioni di barili al giorno, che è una quantità che non ha mai prodotto nella sua storia, e ci sono voci che circolano adesso che potrebbe aumentare ancora. L'Iran in realtà è un vecchissimo player sul mercato, che però è tornato ad essere una grande potenza con la rimozione delle sanzioni internazionali. Poi sì, ricordavi giustamente la Libia manca all'appello da molti anni, o perlomeno produce molto al di sotto delle sue potenzialità. Prima della caduta di Gheddafi faceva 1,6 milioni di barili al giorno, anche adesso non riesce a superare i 400.000 ormai da anni. Sì, dovesse tranquillizzarsi la situazione in Libia, anche quel petrolio potrebbe tornare sul mercato. Contemporaneamente però, dopo due anni di prezzi veramente bassi, che sono crollati in maniera pesantissima, qualche cosa si sta riducendo anche su altri fronti. Negli Stati Uniti si è perso circa 1 milione di barili al giorno di shale oil a causa della caduta dei prezzi. Questo perché, scusami, lo shale oil a questi prezzi non è più competitivo estrarlo? E questo è il problema? In parte, in realtà lo shale oil è molto diverso a seconda da dove lo si estrae, a seconda delle aree di estrazione della singola società. Viene prodotto molto spesso da società piccole con bilanci molto instabili, molto certo, precari, e non tutte le aree di estrazione hanno gli stessi economics. Negli ultimi anni ci sono stati progressi tecnologici enormi, per cui molte produzioni in realtà sono economicamente sostenibili anche con petrolio a $30-35 al barile, e altre no, sono completamente tagliate fuori. Ma poi pensiamo anche a altri tipi di produzioni, lo sviluppo di nuove fonti offshore in mare aperto in Brasile, dove con la situazione anche economica precaria del certo, Brasile non verranno sviluppate nei tempi che si pensava. Nel frattempo, come è normale, c'è un declino naturale dei giacimenti. Se non si investe in nuovi giacimenti, in nuove fonti di offerta, se magari per risparmiare soldi si risparmia anche sulle manutenzioni, insomma, lentamente è una macchina che si è messa in moto, per cui la produzione di petrolio, che prima era eccessiva rispetto alla domanda, adesso sta finalmente calando. Con l'OPEC la situazione è un po' diversa, perché lì entra moltissimo la politica al di là dell'economia. Ecco, sì, Bellomo, l'OPEC ha perso molto della sua centralità che aveva anni fa, e tra l'altro mi sembra che dei membri dell'OPEC i paesi che ne abbiano pagato il conto più salato del petrolio a 30-40 euro siano quelli latinoamericani, che sono tra l'altro quelli che invece spingerebbero proprio perché vi sia una futura riduzione della produzione. In realtà questo crollo dei prezzi di petrolio lo stanno pagando tutti, persino i ricchi paesi del Golfo Persico, l'Arabia Saudita stessa, non è certo sull'orlo del collasso, però i conti dello Stato sono in deficit e tutti stanno soffrendo di questa situazione. Ovviamente ci sono situazioni più o meno gravi, il Venezuela è non solo a causa del crollo del petrolio, ma anche a causa di malversazioni, di malgoverno, di anni di spese statali. Esagerate, certo. O irrazionali. Insomma, il Venezuela è veramente un paese che sta collassando in maniera gravissima, e quindi non stupisce che sia proprio fra i maggiori promotori di un'azione congiunta, di un tentativo di resuscitare quelle che erano le azioni dell'OPEC di un tempo. Tu dici è diventato meno centrale, sì, in parte forse sì, una volta aveva il potere, se voleva, se riusciva a mettersi d'accordo con tutti i suoi membri, perché anche in passato non era facile tagliare la produzione e rimediare alla situazione, certo, di eccesso d'offerta. Adesso c'è proprio quella variabile della shale oil di cui parlavamo prima, che non è certo controllabile politicamente, sono migliaia di piccoli produttori in un paese che è il regno del capitalismo e della libertà d'impresa, e se il petrolio risale di prezzo tornano in gioco, bene, nuovi operatori e la situazione si sbilancia nuovamente. È proprio cambiato il mondo nel settore, grazie, del petrolio. Grazie a Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore. Noi siamo in chiusura, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, la passione si sente.